nuovo numero di Indiradio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indimedia. In questo numero ci occuperemo soprattutto di questioni relative alla repressione. Infatti parleremo di come alcuni cortei studenteschi a Palermo e a Roma siano stati oggetto di repressione poliziesca, mentre i fascisti che manifestano a Roma, degli studenti fascisti, vengono scambiati per studenti di sinistra dal giornale. E sempre in merito alla repressione vi racconteremo quelle che sono le idee di Maroni per salvaguardare l'ordine pubblico. Infine vi parleremo delle bandiere della Lega che vengono bruciate dagli operai nel Varesotto e infine, come ultimo argomento, parleremo di ambiente. In particolare vi racconteremo quello che è successo a Paola per il processo Marlane. Continuate dunque ad ascoltare Indiradio, che potete sentire solo su Transizione di Fase, la web radio indipendente. Buon ascolto del programma. E di manifestazioni studentesche, ricordiamo soprattutto quella che si è verificata a Palermo il 28 ottobre scorso. Più di 5.000 studenti medi infatti hanno attraversato la città, come leggiamo sul Newsguardian di Media Calabria, rilanciando la pratica del blocchiamo tutto day, e quindi hanno ripreso di fatto quanto accaduto lo scorso anno. Infatti la partecipazione anche quest'anno, anche questa volta, è stata veramente massiccia. Malgrado le minacce degli ultimi giorni da parte di scuole e istituti che minacciavano di punire gli studenti che avrebbero appunto preso parte a queste iniziative di protesta. Si andava dunque dalle sospensioni al divieto di partecipare a viaggi di istruzione fino all'abbassamento del voto di condotta che, come oggi sappiamo, grazie alle innovazioni del ministro, innovazioni sta per dire chiaramente, del ministro Gelmini, è diventato un voto che fa media. Quindi si è trattato comunque di una giornata, quella del 28 ottobre a Palermo, all'insegna dell'attacco alle banche che sono state individuate come obiettivo del corteo e colpite quindi quale simbolo della crisi, poiché si legge in questa nota rappresentano gli interessi del capitale finanziario che questa crisi l'ha generata. Dunque leggiamo come sono state lanciate a più riprese uova contro le vetrine delle banche incontrate lungo il percorso per raggiungere il culmine davanti alla Banca d'Italia di via Cavour, quando gli studenti che ne bloccavano gli accessi e i carabinieri schierati a sua difesa si sono verificati dei tafferugli. La risposta comunque degli studenti è stata, come ormai d'abitudine, risoluta e decisa, e quindi dopo aver resistito alla carica che ha fallito il suo intento intimidatorio hanno ripreso gli studenti questo corteo che ha bloccato la città raggiungendo infine l'università. E lungo tutto il percorso della manifestazione è stata accolta la partecipazione dei palermitani raggiunti dal corteo. Intanto nell'università più di una cinquantina di studenti si sono mossi in corteo attraversando tutto il campus. Infatti l'iniziativa ha lanciato la campagna Occupi Unipa, che porterà gli universitari a muoversi nelle prossime settimane per lanciare la giornata internazionale del 17 novembre, che li vedrà protagonisti dello sciopero metropolitano. Gli studenti dunque sono entrati nelle aule dove si svolgevano lezioni per spiegare ai colleghi e ai docenti i motivi della mobilitazione. In seguito si sono svolte tre azioni simbolo di altrettanti obiettivi individuati come cruciali. La prima contestazione è stata quella contro l'Unipa Store, un negozio di oggetti di marketing per l'università, affidato secondo le dinamiche consociative della governance universitaria a strutture di rappresentanza completamente compiti e compartecipi delle scelte del rettorato sulla redazione e l'approvazione dello statuto e di ulteriori riduzioni di qualità didattica e di servizi agli studenti. Altro obiettivo è stato l'ufficio stage Tirocini, occupato simbolicamente da una ventina di studenti con maschere bianche, fantasmi della precarietà, che hanno calato lo striscione con la scritta «Stage e tirocini vanno retribuiti», denunciando la prassi dei tirocini obbligatori all'interno del piano di studi, vere e proprie forme di lavoro non pagato. Il terzo obiettivo è stato la mensa in Viale delle Scienze per la richiesta di reddito e welfare universitario, una mensa a pagamento e ampiamente sottodimensionata per la popolazione universitaria, che negli orari di punta vede file che arrivano a superare l'ora di attesa. Gli universitari hanno organizzato una mensa popolare di fronte all'ingresso dei Santi Romano, che offriva gratuitamente panini agli studenti, e hanno atteso lì l'arrivo del corteo degli studenti medi. I cori dei due cortei, contro debito e istituzioni finanziarie, hanno reso subito evidente la vicinanza degli obiettivi di universitari e studenti medi, che coi due striscioni Save School, Not Bang e Contro l'università della crisi, Rise Up, hanno caratterizzato la giornata di oggi e hanno rilanciato il movimento in vista delle prossime date. Sia medici che universitari si sono dati appuntamento per la prossima settimana per organizzare le rispettive campagne di lotta e tornare ancora ad incrociare i loro percorsi. Compiacimento tu, hai bollato di gioventù, ti torneranno a cercare. Certe storie vissute si mappino in fondo sbagliate, coi colori apparenti di una sgargiante bandiera. Se il tuo mondo confina il tuo giardino, se il tuo cielo si ferma al tuo balcone, sarai presente a chiamarti quando meno te l'aspetti. Saranno i mostri creati dalle noie quotidiane. Lei era bella, ma bella davvero. E allora sai perché? Quando venni, venni dentro di me. Lei era bella, ma bella davvero. E allora sai perché? Quando venni, venni dentro di me. Shyness is nice and shyness can stop you. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice. Da Italy di Media leggiamo come invece a Roma continua a respirarsi ancora questo clima di repressione che colpisce soprattutto le manifestazioni degli studenti, ma che, come abbiamo visto, sia a Roma che a Palermo, ma in tutta Italia si respira questo clima di repressione. Ci vediamo come a Roma, dunque, vi sono state alla stazione di Cortina delle cariche della polizia e ci sono stati dunque dei momenti di panico sicuramente. Infatti vi erano dei ragazzi che avevano dato vita a un corteo nella stazione e tutti questi ragazzi a volto scoperto contestavano l'ordinanza del sindaco Alemanno che impedisce i cortei nel centro della capitale. Questi ragazzi dunque sono stati bloccati sotto il cavalcavia antistante la stazione, malgrado avessero le mani alzate e il volto scoperto. E chiedevano chiaramente alla polizia di lasciarli passare, ma i poliziotti, ricevuto un ordine, lo eseguono, come ben sappiamo. E dunque queste forze dell'ordine hanno caricato gli studenti, i ragazzi che prima avevano bloccato dei bus alla stazione Tiburtina, e una volta che si erano mossi da lì sono stati quindi bloccati. E questi ragazzi dicono di avere tra i 14 e i 20 anni e di essere a volto scoperto e che lamentano il fatto che venga loro impedito di girare in libertà per la propria città e sono anche presi, come se non bastasse, a manganellate, malgrado siano molti di loro minorenni. E alcuni manifestanti hanno cercato anche di occupare il cantiere della stazione di Burtina, ma sono stati allontanati con altre cariche. E quindi poi hanno acceso dei fumogeni, ma niente di grave chiaramente. E la cosa grave è che non si riesce a manifestare, non si riesce dunque a essere libera all'interno della capitale d'Italia. Questo la dice lunga sullo stato di cose e sullo stato della nostra democrazia. Tuttavia, dopo alcuni momenti di calma, gli studenti si sono seduti a terra, hanno steso a terra i loro striscioni e sono dunque rimasti innanzi alle forze dell'ordine, però un gruppo di loro ha cercato di sfondare le transenne dei lavori della stazione Tiburtina e quindi vediamo come vi è stato l'intervento improvviso della polizia e dei carabinieri che poi sono stati appoggiati e aiutati dalla Guardia di Finanza. E poi, come dicevamo, ci sono state queste persone, alcuni studenti che sono stati bloccati e sono stati identificati. E tutto ciò dimostra ancora una volta come vi sia questo clima di assurda repressione. E quindi ancora una volta vediamo come a Roma sia impossibile manifestare e come vengano presi dei provvedimenti, ad esempio è stata chiusa anche la metro e il capolinea dei bus, e si respira ancora questo clima, e intanto la crisi va avanti, e non abbiamo dunque libertà, la democrazia è soffocata e sempre di più cadiamo in questa grande crisi economica, che è soprattutto ormai crisi anche della democrazia e, della e delle libertà. E parliamo sempre di repressione dopo il 15 di ottobre. Infatti a Salerno, durante un seminario di formazione politica del PDL, il ministro Maroni illustrava le sue idee in merito. Infatti, dopo aver invocato le leggi speciali, ecco che si cominciano a delineare alcuni passaggi fondamentali. In primo luogo, secondo Maroni, è necessario tutelare e garantire le forze dell'ordine, che sono viste a partire dal G8 come dei macellai. Questo lo dice Maroni, chiaramente. E dunque è necessario, secondo il ministro, riuscire a evitare che un PM qualsiasi vada ad indagare, a processare e a mettere in carcere eventualmente le persone che fanno il proprio dovere. Ebbene, secondo Maroni, picchiare impunemente una persona, costringerla a cantare Faccetta Nera e ridurla psicologicamente in uno stato di forza e sottomissione, se questo è un lavoro, ebbene allora è necessario riscrivere la Costituzione e non solo fare un decreto legge come questo di cui parla Maroni. Questo però significa anche qualcosa secondo la nostra visione delle cose. Infatti questo post di Italy Indie Media, pubblicato sul Newswire di Italy Indie Media, ci fa certamente riflettere e ci fa comprendere come effettivamente si comincia ad avere sempre più paura da parte del governo di perdere magari anche quelle che sono di quello che è il consenso presunto tale da parte delle forze dell'ordine, che forse sono sempre più insofferenti rispetto alle scelte di violenza perpetrate da questo governo. Quindi se e quando si avranno queste leggi è per cercare di arginare le proteste delle forze dell'ordine, le quali attraverso un loro sindacato minoritario, a dire la verità, alcuni mesi fa, più di un mese fa in realtà, dicevano e sostenevano che i lacrimogeni li avrebbero forse provati all'interno delle aule del Parlamento se i tagli fossero continuati ad aumentare. E dunque, invece di arginare le spese militari, invece di evitare le guerre estere, ecco che abbiamo questa bella proposta di legge del ministro Maroni. Il PM magari non potrà indagare sulle forze dell'ordine. Bravi, complimenti. Oggi cosa fai? Ti muovi poco e stai con tanti dubbi intorno come me. E non ti accorgi mai, non ci accorgiamo mai di quanto amore brucia come noi. C'è un posto anche per noi, anche per noi. In questo angolo di mondo strano, c'è un posto anche per noi, anche per noi. In questo angolo di mondo insieme. Media Lombardia leggiamo un interessante articolo che ci fa comprendere ancora di più il clima che si respira nelle fabbriche del nord. Infatti nel Varesotto, una ex roccaforte della Lega, un gruppo di operai ha pensato bene di bruciare una bandiera del partito, addirittura autografata dallo stesso Bossi, e con essa hanno preso fuoco anche le tessere del partito che evidentemente questi operai avevano. Questo che cosa significa? Significa che sempre di più al nord cresce il malcontento nella base della Lega, che sempre di più vede quella questione che ha fatto guadagnare molti punti alla Lega, cioè la difesa del lavoro al nord, è in realtà una semplice propaganda che non corrisponde alla reale politica della Lega, che invece di difendere il lavoro al nord difende gli interessi del padronato al nord. E non è un caso che questa volontà da parte del premier Berlusconi di voler propugnare a ogni costo la riforma dell'articolo 18, quindi poter licenziare con estrema facilità i lavoratori non solo del nord Italia chiaramente, ma di tutta Italia, a questo punto gli operai della Lega comprendono sempre di più la reale natura di questo partito. Infatti nel momento in cui gli operai del nord hanno problemi sul loro posto di lavoro, per la difesa del loro posto che viene sempre di più minacciato dalla crisi, in questo caso è difficile e impossibile trovare un referente nella Lega. La Lega non difende gli interessi dei lavoratori, ma difende, come dicevamo, gli interessi del grande padronato. Questa cosa finalmente è diventata un po' più evidente, non che prima non lo fosse, ma ora, in tempo di crisi, anche gli operai del nord, che fino ad ora forse non avevano avvertito più di tanto questa crisi, adesso invece si rendono conto che a difenderli non c'è certamente la Lega. La Lega che parlava di territorio è invece una Lega che parla di padrone. Quindi sono bruciate la bandiera e le tessere, un monito molto preciso dalla base alla Lega, a questo partito secessionista, che lo è solo nelle parole, ma nei fatti è semplicemente uno dei tanti partiti conservatori alla mercé del Pier Silvio Berlusconi. Thank you. Parliamo ora di ambiente, in particolare di una questione di cui abbiamo già parlato ampiamente, ovvero del caso della fabbrica dei veleni di Praia a Mare, cioè della Marlane. Questa fabbrica che ha continuato e continua a disseminare morte e distruzione ambientale è una questione che rappresenta un autentico buco nero della giustizia italiana. Infatti venerdì scorso si sarebbe dovuto tenere a Paola il processo, si sarebbe dovuto riprendere questo processo che in maniera infinita viene rimandato per diversi cavilli burocratici. Ebbene, venerdì scorso un folto sit-in era lì presente a Paola, fatto da familiari e da persone sensibili alla questione ambientale, ma ancora una volta il processo non ha avuto luogo per una serie di cavilli burocratici. Si parla dunque di questa notifica che non sarebbe arrivata direttamente nelle mani dell'avvocato, ma nelle mani invece di un suo mandato, di un impiegato del pubblico praticamente. E per questo motivo dunque non si sono presentati le parti in causa della Marlane. E ancora una volta dunque il processo viene rinviato. Non vi sono molte parole da aggiungere e da commentare rispetto a questa questione davvero molto triste e molto lugubre, che comunque è dimostrazione di come in Italia, in particolare in Calabria, la legge non è uguale per tutti e si dimostra ancora una volta che in nome di un fantomatico lavoro, che poi un lavoro non è, non esiste, si è disposti a morire nel silenzio. In questo caso avrebbe infatti dovuto sollevare non un paese singolo come Praia, ma un'intera regione. Ebbene, al momento ciò non accade. Il silenzio è veramente molto grave e dunque se si fa esclusione di queste persone che sono andate a Paola per questo sit-in, non nessun altro fondamentalmente si occupa della questione della fabbrica dei veleni. Che cos'altro dire? Speriamo che si possa avere un diverso esito di questa vicenda, che veramente sta toccando l'assurdo. Voglio morire giovane, solo per non distruggere quella potente immagine di te, di me, così. Voglio morire giovane, solo per non disperdere in troppe cose inutili l'amore che ho per te. Ma poi ti stringo nel petto e faccio un dispetto al tormento che ho qui dentro. Io vivo per te e dentro quel letto mi sento protetto dal tempo che scuole e chiede di me. Voglio morire sabato prima che il vento porti via questi miei pochi attimi di fragile armonia con te. e anche il primo numero di novembre di Indie Radio volge al termine. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Transizione di Fase, la web radio indipendente. Vi ricordo ancora che chi volesse partecipare alla realizzazione di Indie Radio può farlo facendo riferimento al nostro sito, cioè www.calabria.indimedia.org, e lì vi sono tutte le informazioni necessarie per prendere contatti con il gruppo di gestione di questo sito che fa parte del network internazionale di Indie Media. Vi ricordo anche che tutte le notizie che voi potete ascoltare su Indie Radio sono tratte soprattutto da Indie Media Calabria e da Indie Media Italia, ma anche molti altri siti presenti in rete. Infine, un'ultima comunicazione, una comunicazione di servizio. Probabilmente molti di voi avranno notato che Indie Media Calabria in questi giorni ha avuto problemi di connessione. Questo è dovuto a un aggiornamento tecnologico del nostro sito e a breve tutti questi problemi verranno risolti. Continuate dunque a seguire Indie Media Calabria e a partecipare a Indie Media Calabria nonché ad Indie Media Italia e continuate ad ascoltare Transizione di Fase, la web radio indipendente. Noi vi rimandiamo al prossimo venerdì. Un arrivederci a tutti. Nella mia mente ogni cosa sopravvive, sì.